Colosso spaziale. L'arte come non l'avete mai. Un programma di Fedra C. Boscaro e Stefano W. Pasquini. Ok. Questa puntata si avvale della super mega galattica co-conduzione di Roberta W. Giallo. You out my system. Flush. Now I'm pulling the chains. Always flush. Out my veins, out the drain. Flush. You're lucky you no more sick. You left skid marks, but the scars don't last. Flush. Time to be me again. Flush. Each my boot, meet my friends. Flush. Sorry, love, what was that? All I heard was. I've been too nice, too nice, too nice. You can't afford to be still shopping the biz. Walking way too much bookers. I've been too nice, too nice, too nice. And you're talking way too much. So before you get hit with, I suggest you just flush. Ma Pasquo, che fine hai fatto? Ma ci sei ancora, Pasquini? Oi. Non c'è Pasquini, è andato via? Assente? È assente, cioè, col W l'hai fatto sparire. Mettiamo una nota. Una nota di... Nota nera. Vabbè, provo a richiamarlo magari, tra un po'. E proviamo. Va bene. È andata così che io ce l'ho ancora qua. Senti che fa lo squeak, chiama tu, ma non risponde tu. Intanto ho perso la cuffia e va bene. Ciao Pasquini, è stato bello sentirti prima della trasmissione. Sì, anche se c'è già un W qui di rappresentanza, sì. ci manchi Pasqua. Ci manchi molto. Come? Però Danilo Masotti, che lo conoscete, no? Soprattutto Pasqua. Sul mio profilo Facebook ha scritto: meno male che non c'è Pasquini, con la sua solita. Bene. E salutiamolo, è venuto anche ospite qui, mi sembra. Danilo Masotti credo che sia appunto un fedele ascoltatore. Uh-huh, sì, uno sì. Stanzonista, peraltro. Sì, lo salutiamo. Ma salutiamolo, sì. Ciao Danilo Masotti. E se vuoi interagire con W Giallo, 333-180-94-94 con gli SMS. E poi invece WhatsApp ve lo dico dopo. E e la pagina Facebook di Coxo Spaziale, che tra un po' magari apriamo il profilo sul computer. Sì. Ci dobbiamo organizzare un attimo. No, no, effettivamente questa cosa che Pasquini è venuto meno mi ha un pochino sbalinato lo spazio temporale dell'introduzione al programma. Comunque sì, benvenuti alla 116esima puntata di Coxo Spaziale, che vede la prima, il grande esperimento nascere con la partecipazione di Roberta Giallo. Yeah! Ecco. Che per quattro settimane si vestirà di W. Sì, peggio per voi, sarò qua quattro volte. E sarà la, beh, a detta di Masotti, ancora meglio dell'originale W Pasquini. Sì, ho acquisito la W per onorare Pasquini, insomma, con la sua lettera simbolo. Esatto, esatto. Quindi non mi chiamerò più Roberta Giallo quando sono qui, ma Roberta W. Roberta W. Giallo. Vabbè, questo W invade. Invade, E quindi, per chi non avesse avuto l'occasione di incrociarti, Roberta Giallo in W, ma senza W, è principalmente una cantautrice. Sì. Ma non solo. No, io sono una cosa. No, scherzo. Io sono qualcosa che c'è, che non c'era e che da 32 anni è su questo pianeta, pensate un po'. E sì, come ha ben detto Fedra, sono principalmente, ma non in modo esaustivo, una cantautrice, un'autrice, una cantante. E vabbè, finisco con la lista perché sennò vai. Non voglio tediare il pubblico, ma insomma mi sto buttando in molte cose. E sì, mi piace disegnare, disegno da poco, conduco, insomma, un sacco di cose. E poi collaboro con altri musicisti, con altri artisti, e quindi da ogni collaborazione nasce sempre qualcosa di nuovo, che fa anche una nuova me, insomma, in qualche modo. Una moltiplicazione di Giallo. E queste caratteristiche fanno di te la migliore prima co-conduttrice occasionale. E sono senza parole, grazie Fedra, la ringrazio pubblicamente, insomma, perché è sempre molto carina. No, ma adesso siamo colleghe, possiamo pure, certo, anche... Certo, no, posso, allora cosa devo fare? Devo essere più... devo tirarmela di più? Me lo consigli? No, non lo so. Comunque, intanto potremmo descrivere che il fatto che per tutto novembre tu sarai qui. Allora, io per tutto novembre sarò qui e vi presenterò alcuni, no, non prodotti, ma alcune persone. E facendo la parte del co-conduttore di Coxo Spaziale, insomma, questa puntata parliamo principalmente di te e ti presentiamo. Ma esatto, nelle prossime, diciamo, infatti, diciamo, è solo questa puntata, ragazzi. No. Nelle prossime, invece, così come faceva il caro W, cercava di, cioè, così come faccio anch'io, di presentare altri, certo, contesti che noi conosciamo dal nostro punto di vista, e tu in particolare ci porterai il mondo forse della musica, del cantautorato bolognese, ma non solo. Soprattutto cantautorato, ma non solo. E adesso io direi, così per cominciare, yes, e farvi sentire un pochino, per chi non avesse ancora avuto l'occasione, la cifra della Roberta cantautrice, mettiamo un animale? Mettiamo un animale. Animale. L'anima è un animale e se ne sta al di là del bene e del male, la ritorno ad ascoltare, perché lei sa più della mia ragione. Sono gazzella, sono leone, sono lucertola e mi scaldo al sole. Animale che è il singolo uscito, cioè, ricordami un attimo? Ormai qualche mese fa, cos'era? Gennaio? Aprile? Cos'era? Sì, aprile forse di quest'anno. Mm-hmm. La memoria, come vedi, è il mio forte. Ma sì, perché noi siamo sempre avanti, capito? Pensiamo sempre a quello che dobbiamo fare dopo. Sì, oppure a quello che è stato. Insomma, il presente sfugge sempre via. Esatto. Però nel presente ci è arrivato un messaggino. Sì. Sì, che dallo stile mi ricorda tanto un po' W, chissà se c'entra qualche cosa. Siete due gragnocche, anche se mi buttate giù il telefono. Ah. Ma noi non buttiamo giù il telefono nessuno. Cosa succede? Cosa succede? Pasqua, di nuovo non ci sei più? Non ci sono più. Sono andato a casa. No, io purtroppo sono in carcere, per cui non posso uscire, non posso essere lì con voi. Ma chi era questa qua che faceva sti urli? Che sembrava una gragnocca dal suo... È la mia prima co-conduttrice, la prima della serie di co-conduttori che ti sostituiranno fin tanto che tu non tornerai, non uscirai dal carcere. E chi è? Come chi è? Addirittura ho preso parte del tuo nome, Roberta W. Giallo, adesso mi chiamo, per onorarti. Sei Roberta W. Giallo? Sì, ma adesso come? Sì. Ma tu, ma la Roberta Giallo non è mica così brava. Va bene, dai, se l'è presa perché Danilo Masotti ha commentato su Facebook il post della mia conduzione con "per fortuna che non c'è Pasquini", una roba del genere. Cosa vogliamo dire a Masotti? Gli dobbiamo dire a Masotti, bisogna dirgli auguri Alberta. Ah, anche a lui? Cosa c'entra con Farnedi? Niente. Il carcere a Pasquini gli fa un po' di effetto lobotomizzante, credo. E sì. Va bene, se vuoi rimanere con noi, intanto, anzi, facciamo così, aiutami a presentare al pubblico le note caratteristiche della nostra co-conduttrice. Ti cedo la prossima domanda a lei, per conoscerla meglio. Ho quasi paura adesso. Hai quasi paura. Sì. Adesso si addormenta. Scusami, puoi ripetere la domanda? La domanda è un ordine. È entrata cioè, malgrado la porta fosse chiusa con due mandate, è entrata una guardiana con manganello e mi sono dovuto mettere sulla penna. Ah, però. La domanda era un ordine, vero Fedra? Deve farmi delle domande. Intervista Roberta W. Giallo. Roberta Giallo, senza il W. Ma se sto pezzo era di aprile, perché lo canti oggi? Beh, perché nel frattempo non è uscito ancora un altro singolo fresco fresco, quindi abbiamo pensato di mandare in onda una cosa già uscita, giusto per rispolverare, no? Anche al pubblico di Radio sì. Fujiko. Cioè, per me era un pochino... ho scelto questo brano. Hai fatto una cosa, cosa hai fatto al Teatro Navile? Parliamo delle news. Bravo Pasquini, bravissimo. Questa è un'ottima domanda. Perché ti ho vista e hai detto, cazzo, quella lì la conosco. Che tra l'altro c'era il tuo calendario lì sul tavolo del Teatro Navile e gli ho attaccato un bottone al proprietario. Intanto sei già invitato per una delle prossime date, che saranno sempre al Navile o l'11 dicembre o il 29 gennaio o il 26 febbraio, ma poi te lo dirò meglio. E ne faremo anche probabilmente una puntata ad hoc, sì, coinvolgendo anche gli altri partecipanti. Esatto. Che cos'è questo spettacolo? Che cos'è questo format spettacolo musicale che Fedra è venuta anche a vedere dal titolo The Dark Side of the Music? Ma è come se fosse un programma televisivo sostanzialmente, in cui io ed altri cantautori di Bologna, miei amici, presentiamo in retroscena della musica, ma più che altro dei nostri percorsi da cantautori, tra autoironia, ironia e confessioni. Quindi, ma ride davvero o fate finta? Il confine è sottile, nel senso che siamo noi che in qualche modo raccontiamo, ma in forma assolutamente, come dire, teatralizzata, ma quello che abbiamo vissuto, ma poi anche attraverso, diciamo, le testimonianze di ospiti, altri cantautori di volta in volta presenti, perché è come se ogni, come dire, serata avesse un tema specifico e sulla base di questo tema noi costruiamo questo show tra canzoni, interventi, tra l'altro pubblicitari sempre fatti da noi, da personaggi che ci consigliano cosa comprare, no? Fedra può dire qualcosa riguardo questi? Beh, io posso dire che non vedo l'ora di trasmettere la sigla del programma. Fuliggine si chiama il brano. Sì, il titolo si chiama Che Fuliggine. La spiega meravigliosamente con ironia, ritmo e, sì, e voci magistrali. E poi Fuliggine, appunto, tornando a, diciamo, questo programma, format, spettacolo, nasce da me in collaborazione con altri cantatori che sono Marco Piermattei e Paolo Sbarbati, e poi allo spettacolo partecipa anche Silvia Salerno, e la sigla è stata scritta da me e Paolo Piermattei, una collaboration, diciamo. Ho capito, ma poi che cosa comprate poi alla fine? No, loro offrono vendite, tipo... Era per spiegare che durante questo spettacolo è come se fosse un programma televisivo all'interno del quale c'è della reclama detta, sì, da Maurizio, sì, Costanzo. Vendono ad esempio degli occhiali. Esatto, sono come delle televendite che abbiamo pensato di far noi, ad esempio c'è L'Occhio Aperto di Ben Switzler che vende gli occhiali per tenere gli occhi aperti quando i cantanti cantano, perché c'è stato sempre detto che cercare il pubblico con l'occhio è un modo migliore per creare interesse, sì, o empatia. Laddove invece il cantautore quando canta di solito chiude gli occhi per cercare di ritrovarsi nella sua cameretta. Esatto. Poi non so, c'è Dente Marcio che è un famoso rapper che, come dire, invita le persone ad andare all'aperitivo in un locale di Milano che si chiama Mondo Rap. È da vedere Pasquini per essere compreso, perché vero, va visto, sì, vero Fedra? Sì, e nella puntata che dedicheremo a questa progettualità, che questa insomma all'inizio poi nascerà, nel link della puntata del giorno dopo di Coxo Spaziale ci saranno tutti i linkini con, certo, i video, le cosine, gli assaggini. Magari potremmo dedicare una puntata a W, a Pasquini. Oddio. Magari. Vieni ospite? Magari vieni ospite. Insieme ai bambini e alla babysitter, no, con la carceriera. No, insieme alla babysitter e senza i bambini. Qua, guarda che se continui così ti continua di più la reclusione, ti mettono anche in cella di isolamento, sì, ti tolgono, no, il telefono. Ormai penso che la mia detenzione sarà perenne. Ma fai, sento questo tonno rattristato ormai. Sì, ma è anche la fascia oraria che gli fa sempre questo effetto. O è novembre. Sì, no, è vero, infatti ho preso un caffè adesso. Va bene, allora salutiamo Pasquini. Ti mando un selfie dalla mia cella. Grazie. Sì, volentieri, lo pubblicheremo da domani su www.coxospaziale.blogspot.com. Ti ricordi i bei tempi quando lo dicevo sempre sbagliato, Pasqua? Certo. Ormai non lo dico più, lo dico giusto. E adesso ti salutiamo mettendo questo brano che sono 2 settimane che mi chiedi di trasmettere e finalmente ce l'ho. Anche se qui sul, sì, player della radio ha cambiato nome. Che geograficamente è molto vicino al Teatro Navile. Di un po', che cos'ha di geografico? A niente, viene da dietro l'angolo. Per saperne di più, da domani sul blog? Esatto, www.coxospaziale.blogspot.com. E allora fammelo trascinare qua, che dopo ci sentiamo i 2 minuti di Lolli e tanta bella pubblicità. Mi sembra giusto. Vi bacio. Ciao. Ciao, bacini, ciao, ciao. Bacini. Ciao, ciao. Nuvolari e bruno di colore. Nuvolari alla maschera tagliente. Buona la super musica. Nuvolari alla bocca sempre chiusa. Di morire non importa niente. Suona la più bella musica. Corre se piove, corre dentro il sole. Oh. Corre se piove, corre dentro il sole. Dimentica i tuoi guai perché questo suono porta su. Quanto su, più su, quanto su, più su. Dimentica i tuoi guai perché questo suono porta su. Quanto su, più su, quanto su, yo, yo, yo. Bella Lucio, grazie di cuore, della luce, dell'amore, siamesi brothers. Oltre la coltre, oltre le mode, oltre le bocche aperte di gente che mangia queste teste vuote. Sempre forte, sempre oltre, vedo troppe zone morte. Semino, infesto, impara le arti, mettile in pratica e sbattiti. Sono attimi, sono battiti, sono il respiro che nutre le immagini. I viaggi che sogni di giorni che vivi domani, stringendo le mani a persone che ami, pensando agli affetti lontani, umani, animali. Un'unica anima suona la più bella musica. Ed un'unica anima suona la più bella musica. Nuvolari e bruno di colore. Nuvolari alla maschera tagliente. Suona la più bella musica. Nuvolari alla bocca sempre chiusa. Di morire non importa niente. Suona la più bella musica. Corre se piove, corre dentro il sole. Oh! Corre se piove, corre dentro il sole. Dimentica i tuoi guai perché questo suono porta su. Quanto su, più su, quanto su. sappia pianissimo. Mi volare corre velocissimo. Siamesismo a consigliarci l'altissimo. Il sintomo si trasforma in malattia. Se non te ne accorgi lo lavo via. Se non la meglio amica mia. Il cuore detta la via. Voi state a ascoltarlo. Hai mai provato a farlo? Provi ad azzittirlo. Ma urla come un bimbo. Ti purificano queste grida. E babagita. Energia pulita. L'unica via d'uscita. Un'unica anima suona la più bella musica. In un'unica anima suona la più bella musica. Nuvolari e Bruno di Coloro. Nuvolari alla maschera tagliente. Suona la più bella musica. Nuvolari alla bocca sempre chiusa. Di morire non importa niente. Suona la più bella musica. Corre se piove, corre dentro un sole. Oh! Corre se piove, corre dentro un sole. Dimentica i tuoi guai perché questo suono porta su. Quanto su, più su, quanto su, più su. Dimentica i tuoi guai perché questo suono porta su. Quanto su, più su, quanto su, più su. Bella luce, grazie di cuore, della luce, dell'amore, del nuovo significato che riesce a dare alle parole. Solite cose, solite noie, dai. Hai colori, sfumature, luci nuove. Veloce come nuvolari. Vuoi volare, vuoi sognare. Vuoi segnare il gol finale. Sconfinare, superare il muro e disegnare un gran finale. Sentire il tifo dalle gradinate. Scampare a queste grandinate. Gran finale, sono Robiello. Suona la più bella musica. Ciao fratello, stacci col cervello. Fedra, mi sono un attimo trasformata in mia cugina. Robiello, ciao. Ciao Fedra, finalmente noi, qua. Noi siamo grandi fan, io non vedevo l'ora di averti in trasmissione. Ma che figata, pensa che io vengo da Bel Air apposta. Da Bel Air, è vero che eri finita a Bel Air alla fine. È finita a Bel Air, sì. Insomma, qui Pasquini ha fatto tanto il misterioso, ma in realtà con il tuo, con le tue connessioni con il mondo rap sappiamo di cosa si tratta questo progetto. Dici un po'. Prima Roberta Giallo stava parlando di Dente Marcio, che è un rapper di The Dark Side of the Music, però io so qualcosa su questo disco perché Paolo Piermattei, mio amico caro, cantautore che lavora in Pressing, mi stava parlando di questo disco. Beh, sono brava, vero, a parlare. Ti adoro. Mi stava parlando di questo disco che si chiama Bella Lucio, che è un disco dove tanti rap hanno, come dire, rifatto delle basi su delle canzoni, su dei capolavori del grande Lucio. E quindi esiste questo disco, anche in vinile, perché l'ho visto, anche in vinile, che si chiama Bella Lucio. E mi sa che ci sta Clementino. Insomma, ci stanno un sacco di rap. Adesso mi ricordo solo Clementino. Ma poi mi sa che c'è quel Rocco Hunt. Poi ci sta, capito Fedra? Sì. L'ho toccato quel disco, ecco, questo voglio dire. E allora, bella lì Roberta. Bella Fedra. Ciao fratello, ciao sorella. Però non posso dire Robiella. Quindi ciao fratello, ciao da Robiello. Cozzo sacra. I due minuti di Nolli hanno una durata percepita variabile. Le piazze, le strade, ovunque casa tua. Strani baldacchini magnetici sulle case, sulle chiese. Ti cercano, ti chiamano, ti postano l'ira di di merda impediscono di amare e di proliferare. Un giorno il tuo pesce sarà della consistenza dello slime o della trekking light. Telefonati da solo e ditti dove credi di andare a parare. Amico cellulare. telefonati da solo, consola le tue membra magnetiche. Chiamerai l'amico che in questo frangente può aiutare con il tuo cellulare, ma non risponderà perché si trova in zona che non prende, ma non se la prende. Guarda che sfiga. Telecom Italia, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è strano. Già finito? Sono Paolo Rassei e sto ascoltando Coxo Spaziale. E allora Roberta, sì? Siamo tornati alla 116esima in diretta per la 116esima puntata di Coxo Spaziale, sì? La prima che inaugura le co-conduzioni W, sì? E la nostra prima co-conduttrice per tutto il mese di novembre è Roberta Giallo, e le chiedo: come va allora? Come ti senti vestita di W? Ma io bene, diciamo che qui si sta bene, c'è una bella temperatura, c'è calore umano, c'è dell'arancione, quindi tutte cose che, come dire, aiuta a sentirsi bene. Adesso c'è quell'altra cosa tanto caratteristica del coxo, che chi lo sa, cioè, ti senti pronta? Vado con lo stacchetto? Aiuto, aiuto. Sei pronta? L'angolo della menzione. Ah! Sì. Avevo paura. Hai il file lì davanti? Sì, cominci, sì, ho tutto tu. Sott'occhio. Mo sì, comincia tu, vai. Penso che ne parleremo benissimo adesso, no? Sì, venerdì 6 ore 22, Amore prossimo di Andrea Alessandro La Bozzetta al cinema Lumière. Tralasciando la sigla, perché abbiamo appena sentito l'autore che è qui con noi. Sì, che onore. Sì, è un'opera. Ciao. Ciao Andrea Alessandro La Bozzetta. Benvenuto. Ciao Andrea, che più ha un nome lungo come Pasquini. Allora, A. L. Bozzetta. È la tua opera prima, e non so, sì. ed è un'opera prima che è anche stato selezionato a Cannes nel 2015 per, sì, all'interno dello Short Corner. Racconti, esatto. Adesso è qui in, aspetta, anteprima nazionale a Gender Bender. Quindi, esatto, dacci due coordinate. Innanzitutto, grazie per aver accettato l'invito a raccontarcelo in diretta. Grazie a voi. Siamo tutti orecchi. Allora, sì, appunto è la mia opera prima, più specificatamente è il mio cortometraggio di diploma, perché ho frequentato una scuola di cinema qui a Bologna, e il film, appunto, come avete detto voi, è stato selezionato all'interno dello Short Corner allo scorso Festival di Cannes, che è il mercato dei cortometraggi. Aspetta. E il film racconta la storia di due amici, Salvatore e Giuliano, che si allenano e giocano a basket in un campo in un parco di periferia. E dopo lo sport e l'attività fisica si riposano sul prato parlando dei loro desideri più intimi e delle loro pulsioni verso l'universo femminile, ma tutto questo avviene però in chiave completamente maschilista e sessista. E poi a un certo punto, in questo lungo dialogo greve che i due protagonisti hanno, succede qualcosa che li porta in un territorio sconosciuto, che però non diciamo, perché noi vediamo la fine del film. Manteniamo il mistero. A metà sala, nei posti migliori, alle ore 22, al cinema Lumière. Io poi... Tu vai? No, io andiamo? Sì, andiamo, dico, cioè, certo, tutto quello di cui parliamo poi ci andiamo per forza, dai. E quindi tienici i posti, Andrea, Alessandro. È possibile prenderci il posto? Ce li tieni tu con un cappellino. Va bene, farò del mio meglio. E allora, al cinema non si dice quella parola con la M come si dice a teatro, quindi mi trovo un po' sprovvista. No, diciamo che vale anche per quello, sì, dai. Ok, allora prima, diciamo. Quindi, allora, tanta merda. Grazie Alessandro, ciao. Grazie a voi. Aspetta, ciao, che faccio lo stacchetto, intanto tu puoi pure riagganciare il telefono. E ciao. Ciao. che ci piace, sì. Ci piace. È bello, però mi ha intrigato questo film, è vero? Sì, sì, ma io ho avuto la fortuna anche, Alessandro mi ha passato il link per la stampa, per così sapevo di cosa trattava e mi motivava di più, e infatti mi ha motivato di più. E quindi... è domani poi il 6, no? Sì, oggi è il 5, la 116 di angolata del Coxo va in onda il 5, giovedì. Va bene, allora, siccome io poi anche per la prossima menzione avrei un contributo telefonico, metto un branino che così prende un po' di tempo, insomma. Ma sì, ci aiuta ad andare avanti. Due minutini? Sì. Preferisci Digging a Grave o The Body Breaks? The Body Breaks. Ok. Body breaks and the body is fine. I'm open to yours and I'm open to mine. The body aches and that ache takes its time, but you'll get over yours and I'll get over mine. And the sun will shine and the moon will rise up. Yeah, the body it calls out. It whispers at first, but it ends with a shout. The body burns, yeah, the body burns strong. Until mine is with yours, then mine will burn on. My flesh sings out, it sings, come put me out. Like the wind on a swing, a bridge through a hoop or a lake through a ring. The body stays and then the body moves on, and I'd really rather not dwell on when yours will be gone. But within the dark there is a shine, one tiny spark. E allora te l'aspettavi così da Body Breaks, Roberta? No, fantastico, che bel momento, guarda, rilassato, che belle cose che nascono anche con l'essenzialità, no? Sì. Questa voce. Questa... Ah, è vero, il commento della cantautrice, giustamente, io chiedevo la nata tutto boh. Va bene, ma dai, rimaniamo sul pezzo e giusto per rientrarci, eccoti qua. Rientriamo. Ecco, abbiamo preso la nota e adesso vado io con la seconda menzione. Sì. Abbiamo due menzioni che avverranno entrambe sabato 7, perciò richiediamo al nostro pubblico il dono dell'ubiquità, ma ai coxonauti questo dono è dato, a parte a Pasquini che ne ha un po' abusato, quindi gliel'hanno tolto. E dalle 10... con inizio performance alle 18, poi vedremo se ho detto bene, fotografando l'incanto, carrellata di visioni sul futuro immaginifico dell'infanzia, ad Ateliersi, all'interno del programma del Gender Bender, un evento che non vuole essere arte per l'infanzia né arte sul tema dell'infanzia, ma arte creata con il sapere e la capacità di incantare il del bambino. Direttore artistico Anna Albertarelli. E invece qui in linea abbiamo Nika, che ci racconta un pochino di che cosa si tratta nello specifico. Vero Nika? Ciao. Ciao Nika. Benvenuta a Coxo Spaziale. Grazie, ciao ragazzi. ho ascoltato con attenzione tutto quello che hai detto E una sola precisazione, che sono, iniziano alle 17 le performance, non alle 18. Ecco. E ma per il resto, sì, Fotografando l'incanto è un contenitore che diciamo nasce da una necessità più che altro di Anna Albertarelli, che è il nostro direttore artistico, la nostra direttrice artistica, che nel momento, essendo un'artista e performer, nel momento in cui è diventata mamma, ha iniziato a fare una ricerca artistica proprio sul tema dell'infanzia. E così è nato questo collettivo di artiste. Che fra l'altro, scusami, ma è nato diversi anni fa, se non sbaglio. Io questo nome me lo ricordo anche a Peraspera, sbaglio? Esatto, esatto. A Peraspera ci siamo stati nel 2013. Mm-hmm. No, 2014, scusa, sto sbagliando. E quest'anno siamo al Genderbender. E quindi sabato 7 novembre, appunto, all'Atelier di via San Vitale 69, alle 10 del mattino iniziamo ad aspettarvi. Saremo presenti con 6 opere questa volta. Sì, quindi, che sono installazioni e o anche performance, giusto? Esatto, sono alcune performance che ci saranno appunto dalle 17, poi ci sono installazioni video e foto, e insomma venite a vedere perché è molto interessante. Tra l'altro anche tu sarai nel pieno dell'attività perché sei la direttrice, esatto, di un intervento in particolare, giusto? Esatto, esatto, sì sì, sono io, presento un nuovo progetto che è lo Sparacolori, ed è una video installazione, un video che è stato girato nel mese di ottobre, e partendo da una storia inventata dai bambini, e quindi ho dato spazio alla loro immaginazione, perché io prima di tutto nella vita sono un'insegnante in scuola d'infanzia. Ah, quindi conosci la materia di cui si sta parlando. Esatto. E allora diciamo, per chi avesse voglia di approfondire ulteriormente la programmazione e le caratteristiche dell'evento prima di sabato, da domani su www.vacoxospaziale.blogspot.com ritroveremo i link per andare a scandagliare meglio l'evento, e se no ci si vede direttamente ad Atelier C dalle 10 e poi anche dalle 17. Una domanda, sì, Roberta, ditino, ha una domanda. È una domanda che non c'entra, ma c'entra. Ho sentito vibrare nel tuo accento una zona Fano, Pesaro. Sei marchigiana, Nica? La sgamata? Cosa. Ma io sono di Senigallia, ho sentito vibrare qualcosa. Tu dove sei? Vabbè. Io sono mio padre di Fano. Ah, oh, ho sentito Fano, proprio azzeccato, visto? Questo è stato proprio in stile Pasquini, top del top, grazie Roberta. Ma voi vi occupate delle cose serie, io mi occupo della parte più leggera, insomma. Perfetto, ecco. Guarda. Va bene, allora intanto che fate la vostra amicizia, io mando il brano e procedo con la trasmissione. Dai, Nica, ti ringrazio e ti auguro tanta merda, sì, anche a te. Anch'io, tanta. Grazie, ragazzi, merda per te. Ciao. Ciao. E viva, e viva, e viva. No, ci siamo ancora, no? Io pensavo di andare via, vedi? Adesso no. Dighiniamo la grave. Sì. Adesso non ci sei. I'm digging a grave in the moonlight. I'm digging a grave where we lay. Hoping the sun won't ever come up, and there'll be no compromise again. Thank you. questo significa che continuiamo ad essere nelle menzioni nonostante tutta questa musica. Come ti stai trovando con le menzioni, Roberta? Molto bene, molto interessante. Nella mia mente già hanno cominciato a vibrare nuove idee. E adesso la prossima menzione, come già hai riconosciuto dal nome, sì, tratta di quella persona che era qui in trasmissione la scorsa settimana e alla quale ti ho presentato. Sì, che avevo perciò... già preconosciuto. Sì, sì, perciò sì, ecco qui Valeria, a questo punto, Valeria delle Giraffe. Ciao Valeria! Ciao carissima, ci ritroviamo, come vedi? Vedi? In comunicazione tutta la settimana. Sì. Okay. Le parti invertite, però in questa settimana tu ne hai fatte un sacco e ti sei portato un sacco avanti con Garage Sale. Abbiamo anche qui un evento che durerà tutto sabato, comincerà alle 12 e finirà invece a notte inoltrata in questo però. Caso. Sì, sì, sì, si chiama Garage Sale, le giraffe Last Catwalk, di questo abbiamo già parlato la settimana scorsa e poi certo, per approfondimenti comunque da domani si troveranno tutti i link del caso su www.coxospaziale.blogspot.com, mi sono un po' impappinata, e avrà luogo a Dinamo, la vera stazione di Bologna. È una, io ho scritto così, una giornata dedicata al design bolognese caratterizzata da una ricca programmazione di eventi, incontri e performance. Ho scritto bene, Vale? Sì. Certo, perfetto, anche perché comunque, ok, è la mia sfilata, però comunque è un collettivo anche di tutti gli artisti e le persone che fanno il made o design bolognese, quindi comunque ho cercato di mettere tutti insieme, eventi inizia a mezzogiorno e poi 23:45 fiscalissimi inizia. Ok, e infatti questa cosa della condivisione è la mia sfilata, ma ho condiviso, e in realtà c'entra anche con lo spirito di Garage Sale, che lo ricordiamo, è la tua prossima avventura che comincia proprio sabato e che ti coinvolgerà per... Beh, sicuramente c'è già un secondo... Sì, sì, abbiamo già il secondo evento per Arte Fiera. Io sto cercando di creare questo format che, come ne abbiamo già parlato giovedì scorso, sto cercando di creare come sempre un contenitore di idee. Questa volta propongo la mia sfilata e ci saranno queste persone che fanno design di Bologna e design limitrofe che si racchiudono nel libro Made in Bo. Ci sarà il libro La Cura, presentazione di libri, ogni ora succederanno piccole chicche che si collegheranno, l'aperitivo si andrà avanti per arrivare alle 23:45 con la mia performance, per poi finire insomma col DJ set delle Petite Aventure che si dirigerà con la sua musica. Insomma, l'ho strutturato vario, comunque ogni ora succede qualcosa. E allora lasciami mettere questo. Un programma ricchissimo. Sì, sì, diciamo sì, che mi sono incasinata molto la vita. Non male, non male, e quando ci vuole ci vuole. Valeria, ti ringraziamo, ti rituffiamo nel tuo lavoro e ci vediamo sicuramente sabato. Ci incontreremo secondo me per strada la prossima ma volta. Certo. Sì, sì. Ci incontreremo anche sabato, sabato alla Dinamo Stazione. Grazie mille. Ciao. Grazie. Ciao. E adesso ti faccio sentire anche quest'ultimo branino che è proprio un minutino così. Sì. Per farti decomprimere dopo questa prima menzionata. Sì. Ok? Sì. Allora Roberta, Che bello. Siamo quasi alla fine della prima puntata della serie. Già mi manca questa prima puntata, ne voglio un'altra. Potremmo riascoltarla però ovviamente in podcast. Beh, in realtà da domani su www.coxospaziale.blogspot.com, oltre che foto, siti, materiale quant'altro, vario, si potrà scaricare e riascoltare la meravigliosa Super Mega Galattica puntata che si avvalge della della Super Mega co-conduzione di Fedra Boscaro prima, poi della co-conduttrice Roberta W. Giallo. Sì, in veste d'Aplica. E poi c'è stata anche Robiello per poco. Mannaggia, ma tornerà tua cugina? Certo, io certo. Io sai che la amo, lei, tua cugina. Lei io... torna. Ma possiamo fare una puntata dedicata al rap, alla scena rap bolognese con tua cugina che fa? Come no? Che meraviglia, che meraviglia. La facciamo senz'altro. Cliscia magari la tiriamo fuori più per sì, Natale. Sì, per Natale. Si potrebbe replicare la puntata Cliscia con Robiello? No, con il fascinatore, te lo ricordi? Sì, quello sì, che veniva dalla Francia? Sì, sì, sì. Ah, che bei ricordi. Ah, è vero. Che però sì, non possiamo fare metà radio, perciò no. Se vuoi fare un piccolo compendino, un saluto, io poi ho preparato un branino che si chiama Anima Animale. Ah, per essere sempre in tema. Sì, sì. Ma allora io saluto dicendo che insomma la puntata è passata benissimo, mi ha ricaricato, mi ha dato nuovi stimoli, nuove energie. Sono contenta di ritornare qui il prossimo giovedì, stessa ora, stesso mare, no mare no perché a Bologna non c'è, con Fedra Boscaro e Roberta Giallo, ma qui Roberta W. Giallo. E saluto Pasquini. Sì, che comunque ci sta ascoltando, lo saluto con affetto. Comunque lo chiameremo ogni puntata. Certo, c'è poco perché da ci fare. Manca molto. Sì. Allora, a giovedì prossimo, ma prima ci vedremo anche poi, ci vedremo al Cinema Europa, anche per un caffè, per il, al Cinema Europa per Alessandro Andrea La Bozzetta. Sì, e, il suo amore prossimo. Esatto. E poi invece per Incantando, fotografando l'incanto ad Atelier C e in ubiquità ma spinta massima al Garage Sale di Valeria. Esatto, sabato 7 questo. E allora così si conclude la 116esima puntata di Coxo Spaziale. Ciao a tutti! Anima animale, what makes you so sure? What makes you so sure, soul animal? Anima animale, what makes you so sure? What makes you so sure, soul animal? It's no fun unless it bleeds. It's no fun unless it bleeds.